Gisela G. 17 gennaio 1926. La Z non viene più. Ora viene una figura avvolta nella nebbia, abbastanza quieta, non c'è da aver paura. Mentre sta qui io riesco anche a dormire. 20 gennaio. Pare che la figura sia una donna, ma del tutto diversa da quelle viste finora, una figura di nebbia, che non tocca il suolo. Il suo viso è alquanto amabile ed ancora giovane. Essa vola intorno nella stanza con una grazia, che non si può descrivere. 27 gennaio. La mia carissima visita viene tutte le notti. Essa mi ha accompagnata anche a D, dove io ebbi a vivere davanti a lei una cosa strana e singolare. Improvvisamente si sentì nella mia stanza un frastuono, come se fosse stata rovesciata per terra una cesta di bicchieri. Uno scricchiolio indescrivibile, e poi la mia stanza fu piena di fiamme. Mi investì una paura tremenda, perché credetti che davvero la mia stanza ardesse per un incendio. Uscii fuori sul corridoio, era tutto quieto. Quando rientrai, la mia stanza era come prima. Quando chiesi alla mia cara figura che cosa era stato, lei indicò dalla finestra verso il prato, ma io non vidi niente. 1 febbraio. Finalmente mi pare che l'apparizione mi si avvicini di più. Essa mi disse qualche cosa sottovoce, ma non ho capito niente. 3 febbraio. Sono così avanti che sono contenta di vederla. Quindi lei fu qui di nuovo. Io? Ma dimmi finalmente chi sei. Lei, Gisela. Io? Ma dimmi, perché tu sei così diversa dalle altre. Lei? Perché presto adoro. Io? Allora perché vieni ancora da me a chiedere aiuto? Lei? Perché io devo seguire la voce. Io? Che voce? Lei? La voce di chi prega per me. Io? Ma io non ho pregato per te, non ti conosco nemmeno. Lei? Dille che sono salva, io lo ho fatto con la mano, non con la volontà. Allora mi sovvenni che poteva essere Gisela Santo, per la quale santo L. Una suora prega sempre. Io? Ti sei tolta la vita? Lei? Sì, io ero obnubilata. Nota. Gisela Santo era morta 2 anni prima, si diceva che era stata uccisa. Essa aveva un'arnica Santo L. Che pregò tanto per lei. Ma allora va dalla voce. Lei? Non la trovo. Io? Che cosa devo dirle di te? Pregherai per lei? Lei? Preghiera e riconoscenza. 6 febbraio. Gisela ritornò. Le chiesi, perché vieni ancora dal momento che sei così vicina alla liberazione? Lei, per rallegrarti. Io, ti sono tanto grata. Mi puoi dire che cosa è quella cosa tremenda con frastuono e fuoco? Lei, armati di forza. Io, allora è ancora da venire? Lei, sì. È stabilito. Io, non puoi pregare per me che non venga? Lei, tu parli in maniera umana. Io, vedi, io sono sempre quella, fammi il piacere di dirmi che cosa c'è ancora in me distorto. Lei, è chiaro intorno a te, non permettere mai che si oscuri. Io, non dirmi cose piacevoli, ma sii rigorosa. Lei, offri sempre di più il sacrificio della tua volontà, così aiuti te e loro. Essa posò le mani sul mio capo e disparve. Questa fu un'apparizione veramente consolante. Certo non verrà più adesso.